Orgasmo. Sostantivo maschile. Dal greco orgasmos. Stato di eccitamento parossistico. In particolare, orgasmo sessuale. Complesso evento psicofisiologico di breve durata che costituisce l'acme dell'eccitamento sessuale ed è accompagnato da un piacevole stato di coscienza. Raggiunto in seguito a stimolazioni sia somatiche sia psicologiche, è caratterizzato da una serie di azioni neuromuscolari non controllate dalla volontà che culminano per l'uomo nell'eiaculazione e per la donna in contrazioni perivaginali e altri fenomeni motori e secretori riflessi, determinando la risoluzione delle tensioni sessuali. Bambina mia, io lo so che iniziare una lettera così è strano, ma se tu nascessi, nasceresti grazie a un orgasmo. A un mio orgasmo. Il tuo papà vivrebbe questo complesso evento psicofisiologico di breve durata e la tua mamma potrebbe avere contrazioni perivaginali, altri fenomeni motori e secretori riflessi, però non è che è detto. E comunque dell'orgasmo simultaneo ne parliamo un'altra volta. Dicevo, la tua mamma, dopo il mio orgasmo, rimarrebbe incinta di te. Dico rimarrebbe perché non ci sei. Non ci sei ancora. Ma ho da dirti comunque delle cose. Perciò eccomi qua. E tu direi, ma papà, ma non puoi aspettare di avere un orgasmo con la mamma e farmi nascere prima di scrivermi tutte queste cose? E io ti rispondo no. Bambina mia, non posso, perché se io non ti scrivessi questa lettera adesso, forse avrei vergogna a guardarti negli occhi quando verrai al mondo. Il nostro cervello ha 86 miliardi di neuroni. I neuroni sono collegati fra di loro attraverso le sinapsi. Ne abbiamo 100.000 miliardi di sinapsi. La Via Lattea non ha così tante stelle. E forse il mondo non ha così tante case, città, strade. Tra tutti questi neuroni ce ne sono alcuni che si chiamano neuroni specchio. Risuonano sia quando tu compi un'azione sia quando vediamo altri compierla. I neuroni specchio ci mettono in relazione con gli altri. Capacità di empatizzare con gli altri, di sentire la loro esperienza comune alla nostra, di entrare nel loro mondo, viene da questi neuroni specchio, viene dal nostro cervello. Thank you. cosa ce ne siamo fatti di questi neuroni. Cosa ce ne siamo fatti di questo cervello? Ma bambina mia, ma ce ne siamo fatti un sacco di cose. Ah, abbiamo fatto un sacco di invenzioni, scoperte. E secondo me tutte queste invenzioni e scoperte le abbiamo fatte grazie a due cose. Il cervello e la pigrizia. Vabbè, tu penserai che sono matto. Direi, ma cosa c'entra la pigrizia? Beh, pensa a quello che abbiamo fatto. Forse solo una cosa non c'entra. L'idea che il fuoco non era un nemico, che ci si poteva cucinare, faceva tanta luce, rendeva meno tristi e ci si poteva anche cantare tutto intorno Battisti. Pensa alle armi per cacciare. Nessuna voglia di correre dietro agli animali, così arco, frecce, polvere da sparo. Ecco, allora, questa cosa delle armi forse ci ha un po' preso la mano. No, così non va bene, non è possibile. Bisognava trovare il modo per comunicare, per non litigare, in continuazione. Allora fu così che il più pigro trovò la soluzione: parlare le parole, usare il linguaggio. All'inizio non lo capiva nessuno, sembrava un coglione. Poi hanno visto però che lui con le parole le ragazze le faceva innamorare. Vabbè, allora tutti giù a parlare, parlare, parlare. Pigrizia e il matrimonio, crescere i figli, futuro sicuro. Poi, visto che già sapevamo parlare, marito e moglie si potevano amare meglio o mandarsi meglio a fanculo. Un tipo molto pigro a cui piaceva mangiare, stanco di fare il nomade, diventa stanziale. Così l'agricoltura, la zappa, la falce, il martello. E poi uno li ha visti insieme e ha detto: ma che bello però, la falce e il martello, che bello, vabbè. Un altro pigro odiava camminare, ha fatto una, due, tre, quattro ruote, le ha attaccate un cavallo, lui fu contento, un po' meno il cavallo. Ora è evidente che per un'invenzione ci servono due cose: pigrizia e cervello. Ma per fare le cose in grande non bastava solo quello, gli schiavi! Che invenzione, gli schiavi! Allora, strade, piramidi, acquedotti, città, chiese, ponti, fabbriche, tra la la la, schiavi, tra la la la, schiavi, tra la la la, e niente, la festa dura poco. I francesi fanno la rivoluzione, dichiarano i diritti dell'uomo e del cittadino. Gli americani pure loro fanno un casino, niente più schiavi, tra la la la. Ma allora, scusa, ma perché non ci inventiamo le idee? Che sfigata le idee, tra la la la, ma che tra la la la, no, no, no, no. No, no, no, queste idee finiscono tutte per ismo. Illuminismo, socialismo, anarchismo, comunismo, liberismo, nazionalismo, fascismo. Aspetta, aspetta, aspetta, viene fuori un tipetto molto incazzato, ci copia pure il saluto con il braccio alzato. S'era inventato il nazionalsocialismo, che poi per pigrizia è diventato nazismo. Ora, era evidente a tutti che questo Adolfo era un tipo un po' pericoloso, ma eravamo diventati così pigri che tutti dicevano: no, no, dai, solo un po' scontroso. Scusa, ma odia i negri, odia gli ebrei, vuole pure lo spazio vitale. Ma cosa te ne frega? Ma sei ebreo? Ma non ti preoccupare, dai, lascialo fare. Ecco, hai visto cosa succede a seguire le sinapsi? I collegamenti e tutto il resto. Io ti volevo parlare delle meravigliose invenzioni degli uomini e sono finito a parlarti di Hitler. Forse penserai che è una lettera un po' scombinata, bambina mia, mi sa che c'hai ragione. Forse è colpa del mio cervello che a volte mi fa gli scherzi. Comunque ti devi fidare di me. Perché se non ti fidi del tuo papà, di chi ti devi fidare? Io ti assicuro che Hitler c'entra con questa lettera. Che poi, ma che poi, dai, mica ti devo parlare io di Hitler, nazismo e tutto il resto, no? Te ne parleranno a scuola. Forse. Ma sì che te ne parleranno, anzi, quando sarà il momento, ti parleranno quasi solo di lui, di Hitler. Ti diranno... che gli piaceva molto dipingere, ma che non era molto bravo a fare il pittore. Ti diranno che ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale, forse per questo è diventato un po' cattivo. ti diranno che non gli voleva bene quasi nessuno e forse per questo ha scritto il Mein Kampf, che comunque continua a vendere parecchio. Ti diranno che era il capo del partito nazista e che odiava gli ebrei. Ti diranno che i tedeschi erano scontenti, che c'era fame e disoccupazione e per questi motivi Hitler ha preso molti voti. Ti diranno che nel 1933 prende il potere e nel 1939 fa la guerra a tutti quanti. Ah, vabbè, ti diranno soprattutto che ha ucciso 6 milioni di ebrei. La Shoah. Senza dimenticare i Rom, gli omosessuali, gli oppositori politici, i disabili, i matti. E tu penserai che è terribile, che il nazismo è criminale, ma è giusto. Il punto è che penserai che è quasi, cioè che è tutta colpa sua, di Hitler, che è stato lui il mostro, che se non ci fosse stato Hitler. Ma come si è arrivati a quei 6 milioni? Che cosa è successo in quei 6 anni? Più o meno questo. La prima legge l'hanno fatta il 7 aprile 1933. Tutti gli impiegati statali a riposo. Come? Tutti? Ma no, solo quelli che non sono di discendenza ariana. Ah, vabbè. E però il giorno dopo hanno detto: merda, ci siamo scordati gli avvocati. Ma che problema c'è? Anche gli avvocati che non sono ariani? Via! A questo punto a qualcuno viene la domanda: ma chi cazzo sono i non ariani? Risposta con un'altra legge. È considerato non ariano chi discende da genitori o avi non ariani, in particolare ebrei. Capito? Ma scusate, ma perché non ci mettiamo anche i medici? Vai. Allora, l'attività dei medici di discendenza non ariana e che abbiano esplicato un'attività comunista è cessata. Il 25 aprile, che non sapevano ancora che giorno sarebbe diventato, legge contro l'eccessivo popolamento delle scuole tedesche. Questa non l'hanno fatta per escludere i bambini ebrei, non è questo il motivo. Il fatto è che non c'era spazio, c'era rimasto poco spazio. Un giorno pieno, legge sulla revoca della cittadinanza nello Stato tedesco, legge sul diritto straordinario di esonero dei medici e dentisti, e dai che ce l'hanno coi medici, legge sulla sterilizzazione, deve essere sterilizzato chi è affetto dalle seguenti infermità: idiozia congenita, schizofrenia, pazzia maniaco-depressiva, epilessia ereditaria, corea ereditaria, cecità ereditaria, sordità ereditaria, gravi deformità fisiche ereditarie, può inoltre essere reso sterile chi è affetto da alcolismo grave. Tutte queste leggi in 7 mesi, dici che è finita qui? Ma no, perché nel 1935 le famose leggi di Norimberga: è cittadino del Reich solo il cittadino di sangue tedesco, solo il cittadino del Reich è titolare dei pieni diritti politici, legge sulla difesa del sangue e dell'onore tedesco, dove viene vietato il matrimonio tra ebrei e cittadini di sangue tedesco. Spa! Ah, e vabbè, poi nel 36 e nel 37 si calmano un poco, fanno leggi, che ne so, sui veterinari, gli agenti di borsa, la polizia regionale. E però nel 1938 Ai, fuochi d'artificio! Legge sul ritiro delle patenti di guida a tutti gli ebrei, sui rapporti giuridici delle associazioni di culto, sulla denuncia dei beni di tutti gli ebrei, sui testamenti, i patti successori, sulla modificazione dei nomi e dei cognomi dove è scritto che agli ebrei possono essere imposti solo i prenomi che sono indicati dal ministro degli interni, ordinamento sugli infermieri e i passaporti, sul possesso di armi e l'esclusione degli ebrei dalla vita economica tedesca, sulle insegne dei negozi ebraici, sull'assistenza pubblica per gli ebrei, sulla comparizione in pubblico degli ebrei, sull'utilizzazione del patrimonio degli ebrei, per finire con l'ordinanza di esecuzione della legge sulla cittadinanza del Reich. Anni, più di 1700 leggi, decreti e ordinanze che hanno rovinato la vita di più di 500.000 persone, 500.000 ebrei, metà dei quali in quei 6 anni se ne erano andati all'estero, e vorrei anche vedere. E ancora questa non è tutta la storia, bambina mia. Non è, perché un conto sono le leggi e un conto sono le persone. E poi, dai, bisogna anche dire che a quei tempi era tutto diverso. Erano altri tempi, no? Erano altri tempi. A quei tempi si pensavano delle cose che se si pensassero adesso ma fanno ridere. A fine Settecento, un antropologo tedesco afferma: i volti delle nazioni sono determinati dal clima in cui ciascuna di esse vive. Perciò, più è moderato il clima, più bello è il volto. Un altro tedesco, un filosofo, fissò una scala gerarchica delle razze. Le scimmie, i negri della foresta, gli ottentotti, i negri della boscaglia, gli aborigeni e infine il podio. Terzo posto, i gialli. Secondo posto, gli slavi. Primo posto, la razza bianca, signora del mondo. Poi il loro IQ è basso. Cioè il quoziente di intelligenza? Cioè sono meno intelligenti dei bianchi? Sì, sì. Ha visto le facce di quelle quando atterrano? Il menefreghismo che hanno sulla faccia? È meglio in civili che avere le scimmie. Vabbè, dai, era la fine del Settecento, no? Fa ridere. Pensa che dicevano che quelle razze inferiori erano anche ingorde, senza vergogna e cattive. Un popolo che cattivo, ha delle caratteristiche cattive, ha capito come? Cioè, a parte la razza loro fa schifo. Sì, e poi non so che dirti. Fa schifo? Perché è una razza dei viscidi, dei zozzoni. Perché sono zuzzoni? Perché è vero, è una razza brutta secondo il mio pensiero, fanno schifo comunque, sì. Amore mio, non devi credere che tutti la pensassero così. A fine 800 in Germania analizzarono il cranio, il colore degli occhi e dei capelli di più di 6 milioni di bambini. E il risultato fu che non esiste una razza pura tedesca come non esiste una razza pura ebraica. Ma dai, che sorpresa. Però le persone preferivano credere alle opinioni e ai miti invece che alla scienza. Credo selvaggi. Quindi dall'altra settimana saranno a combattere i leoni e intorno al giardino di Asma. Non siamo razzisti, ma adesso basta. La tolleranza è finita. Che hanno fatto? E cioè, che hanno fatto? Io sollevo dopo. Non lo so che hanno fatto. Ok, ho nominato gli ebrei perché un sacco di gente ce l'aveva con gli ebrei anche prima dei nazisti. Una delle cose che dicevano sugli ebrei è che fossero pericolosi per le ragazze, che volessero sedurle, poi vabbè, insomma, comunque questa te la devo dire perché fa ridere. Hitler lo descrive proprio così: il giovanotto ebreo dai neri capelli crespi spia per ore e ore la ragazza tedesca ignara con un'espressione di gioia satanica sul viso. Non si possono accogliere. No, assolutamente. Tante cose che si sentono adesso, per i nipoti che abbiamo, che vanno a scuola, come si fa? Sì, chiamo nei crim, perché sono zozzoni, si mettono tutto con dei fori, se l'aprono. E io ho una figlia magari che è imposta in cucina, perché col zozzo mi si mette davanti così. Sono maiali. Capisci, bambina mia, che questa cosa degli ebrei ci ha un po' preso la mano. Una delle leggende popolari contro gli ebrei è quella cosiddetta dell'ebreo errante. Viene ovviamente da uno sgarbo fatto a Gesù. Insomma, la leggenda dice più o meno questo, che Asvero, un ebreo, offese Gesù sulla via della croce. E Gesù, per tutta risposta, maledì Asvero, costringendolo a vagabondare per la terra fino alla fine dei tempi. Da qui l'immagine di Asvero con la barba parecchio lunga, e di qui anche l'immagine dell'ebreo come l'eterno straniero, lo straniero in casa nostra, eppure criminale. E non siamo razzisti, non vogliamo profughi, non li vogliamo, non vogliamo quella gente lì. Non è un pericolo, non devono passare, lei sono persone umane come tutti quanti noi. Ma sì, che certo, sono persone umane, ma dovrebbero fare gli umani però. Dopo il 1933 in Germania si continuava a ripetere che gli ebrei erano un pericoloso virus portatore di criminalità, che erano l'antitesi dell'essere umano. Non tutti la pensavano così, però moltissimi credevano che gli ebrei fossero diversi e pericolosi, e ci credevano come un dato di fatto inconfutabile. Avete paura che possono fare qualcosa ai bambini? Certamente, ai bambini, a noi, cioè la comunità, a tutti. Io sono nettamente contrario all'arrivo di avventurieri, potenziali parassiti e pericolosi delinquenti sul territorio di Marzano e in generale italiano. I nazisti cercavano di favorire l'emigrazione facendo accordi con altri paesi, tentarono anche l'emigrazione forzata. Una volta la Gestapo arrestò 15.000 ebrei polacchi per ricacciarli alla frontiera, ma il punto è che nemmeno i polacchi li volevano. Così uomini, donne e bambini vissero per un certo tempo nella terra di nessuno, sospinti avanti e indietro. Siamo qua per i nostri figli, per difendere noi! Qua c'è una sostituzione di un intero popolo, ok? Un genocidio di una razza intera, bianca. I nazisti tolleravano e anzi favorivano la violenza contro gli ebrei. Era comune vedere agenti di polizia che si rifiutavano di soccorrere gli ebrei con la giustificazione che difendere gli ebrei esula dai doveri di polizia. Bastardi! Andate a fare il culo, andate! Vieni, italiani, forza! Oh, via di lì, eh! E veloce, quickly! Passa il culo, vieni su! Tiralo su! Vieni qua! Veloce. Oh, vieni qua! Pezzi di merda! Dai, qua, dai, forza! Va, piatta la palla, che fai? Vale! Spiata la porta! Ora! Ma trappi, vieni qua! Vieni qua! Oh. Comando io, non te! Mi chiama la porta! Vieni qua! Allora, cosa c'è? Niente, sono un giornalista, sto riprendendo. Per favore, te ne puoi andare. Però, bambina mia, io. No, io mi sa che sto parlando in palese conflitto di interessi. Perché il tuo bisnonno mica si è fermato nella città in cui è nato, si è spostato, ha sempre lavorato in Italia, però si è spostato e con lui suo figlio, cioè il tuo nonno, cioè il mio papà, è nato in una città e poi si è spostato in un'altra. E questa cosa è successa anche alla mia mamma, è nata in una città e poi si è spostata in un'altra città, sempre all'interno dei confini italiani. Perciò nessuno ha detto niente. Però se è una questione di sangue, non se ne esce. Perché io tengo al mio sangue, ma tengo ancora di più al sangue del mio sangue. E mi devo aspettare che questa cosa valga per tutti, non solo per me. La possibilità che hanno avuto il tuo nonno e la tua nonna, io la devo dare a tutti. Perché ci sbagliamo di grosso. I politici parlano di geopolitica e macroeconomia, di sicurezza e posti di lavoro, ma il motivo per cui le persone si spostano è quasi sempre un motivo d'amore nei confronti di se stessi, nei confronti dei propri figli, nei confronti di chi vuoi. Il punto è che ci hanno assegnato delle aree da cui non possiamo uscire, qualunque sia la motivazione. Se la vita ti va bene lì dove sei nato, bene, altrimenti cazzi tuoi. Perciò ti devi arrendere, bambina mia. Secondo loro ci dobbiamo arrendere e urlare Heil. Allora, se così deve essere, Sieg Heil, decidi tu. Decidi il nome che devo portare nel mondo. Decidi come le persone mi chiameranno. Decidi dove devo nascere e morire, dove imparo a cagare sul vasino per la prima volta ed è sempre merda, che tu sia a Londra oppure all'Equatore. E comunque Heil, Sieg Heil, decidi tu. Decidi dove imparo a bere da una fontana, dove inciampo perché non so ancora camminare. Per legge decidi che percorso devo fare. Dimmi cosa devo pensare. Decidi che lingua posso imparare, in che modo posso chiamare la mia mamma e il mio papà. Decidi cosa posso fare a questo mondo. Decidi che scuola posso fare, se posso andare all'asilo oppure no, se posso avere una casa oppure no. Non so cosa fare, perché sei sempre tu a decidere. E allora Heil, Sieg Heil, Sieg Heil. Dimmi cosa posso e non posso fare. Insegnami cosa è meglio per te e cosa è meglio per me. E se non capisco, costringimi a capire. Fallo prima con le buone e poi con le cattive, che lo sai che noi non siamo troppo intelligenti. Spiegaci una, due, tre volte cosa si può fare a questo mondo. Insegnaci cosa è giusto e cosa è sbagliato. Il mio passato, presente, decidi il mio destino e quello dei miei figli, che sicuramente non sono uguali ai tuoi figli, e tutti e due sappiamo che cosa non faremmo per i nostri figli, che sono il mio futuro e il tuo, i nostri figli. Che guai a chi ce li tocca con gli occhi e quelle mani, che quando nascono sono nani e poi diventano giganti e fanno paura alle persone per quanto sono grandi i nostri figli, che fanno le cose stupide e poi fanno anche i regali i nostri figli, e in tasca hanno carte differenti. E siccome sei tu a deciderne il valore, io ti dico una cosa: io non voglio che mia figlia si ribelli al tuo pensiero, non voglio che faccia la rivoluzione al posto mio, non voglio caricarla di aspettative, io non voglio che faccia quello che io non riesco a fare, non voglio che sia migliore di me. Perciò io non grido Sieg Heil. Queste. My own experience during World War II, where I was arrested by the Gestapo and sent to a concentration camp, Buchenwald, Dora. I was there when something terrible happened to our Jewish friends. What is called the Shoah, the destruction of European Jews. Immediately afterwards, we managed to draft the Universal Declaration of Human Rights, which was saying exactly the opposite of what we had witnessed during World War II. We now knew what it was to be inhuman, as the Nazis had been inhuman towards the Jews. We all then read later on the book of Primo Levi, excellent book, If It Is a Man. And therefore, the idea of humanity, what is human and what is not human, became the message of a generation. Hai visto, bambina mia? Dopo la Seconda Guerra Mondiale i nostri neuroni specchio si sono tutti risvegliati e ci siamo guardati in faccia, abbiamo capito che così non si poteva proprio andare avanti, non andava molto bene così. Allora tutti gli stati si sono riuniti e hanno firmato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Finalmente, qualcosa di scritto, qualcosa che rimarrà per sempre. E noi, lo sai, in Italia abbiamo scritto la Costituzione della Repubblica. Lo sai che dicono tutti che è bellissima la nostra Costituzione. Qualcosa di scritto, qualcosa che rimarrà per sempre. Il punto, bambina mia, è che anche in Germania, subito prima di Hitler, c'era una Costituzione bellissima. Il punto è che avere leggi più o meno democratiche o più o meno belle non ci mette al sicuro da niente. Io credo che il problema della migrazione non sia un problema di compassione o di bontà. Non devo accogliere il migrante perché io sono buono, o cacciarlo perché io sono cattivo. Questo è un termine, non mi interessa. È un problema di diritti e non soltanto in senso che i richiedenti asilo che vengono da paesi in guerra hanno il diritto, non è che gli viene riconosciuto come una bontà, hanno il diritto di essere accolti perché c'è una convenzione internazionale che abbiamo firmato, ma il problema di diritti anche nei confronti di quelli che non vengono da questi paesi, il cosiddetto deprecato, terrificante migrante economico. E le spiego perché. Perché noi siamo quello che siamo, o diciamo di essere, l'Occidente, la democrazia, l'Europa, nel momento in cui abbiamo applicato il concetto di diritto, che è sempre esistito nella storia umana, ma sempre applicato a dei gruppi. Io ho un diritto se sono cattolico e non sono protestante, se sono mercante e non sono plebeo, se sono principe, se sono nobile e non sono borghese. L'abbiamo applicato all'uomo astratto, cioè all'uomo in quanto uomo, senza aggettivi. Noi oggi facciamo il percorso inverso. Io sono europeo, ho un passaporto, sono occidentale, ho dei diritti. Tu da dove vieni? La prima domanda, la domanda più idiota che viene fatto al migrante qual è? Tu da dove vieni? Non vieni da nessuna parte, viene da 2 anni di viaggio nella disperazione e nel dolore. Allora gli si chiede, tu da dove vieni? No, io vengo dall'Eritrea. No, mi spiace, il concetto di diritto per te non vale, torna da dove sei venuto. Il diritto vale solo per noi perché siamo all'interno del paradiso, del superattico dell'Occidente. Questa è la negazione di ciò che siamo e nel momento in cui neghiamo tutto questo ci disintegriamo. Non abbiamo più alcuna funzione nella storia del terzo millennio. Non siamo più niente. Il migrante mi offre una possibilità, la offre a me, di dimostrare di essere quello che devo essere. Ed è la più straordinaria occasione storica, forse l'ultima, che questa parte del mondo ha. Nel momento in cui gli dice, no, guarda, tutto quello che scriviamo, diciamo, le costituzioni, i magnifici libri, i discorsi delle varie anniversarie, eccetera, ma tutte parole, valgono solo per noi, ma non valgono per te. Perché questo è un paradiso, ma a numero chiuso. La torta non bisogna dividerla in troppe fette, perché sennò diventa troppo piccola. Allora è lui che aiuta me, non io che aiuto lui. A me il migrante utile non interessa. Il concetto di accolgo il migrante perché mi porta delle cose, mi fa diventare più ricco, mi aumenta il PIL, lo metto a fare dei lavori che io non faccio più, non me ne importa niente. A me interessa il migrante inutile, quello che quando arriva lì, a Lampedusa o a Pozzallo in altri posti, lo tocco con i guanti di gomma, come non faccio neanche più con le bestie, e mi metto la mascherina perché ho paura dei contagi. È quello il mio migrante, quello che io ho il dovere di accogliere, perché non sa fare niente, non è niente. È quello che una volta chiamavano il povero. Si mette sulla battigia, alza le braccia e dice io sono qua, aiutatemi. Dio una volta al mese va a trovare i bambini che stanno per nascere. I bambini che stanno per nascere sono... dove stanno? Sono nella mente di Dio, no? E quindi lui li va a trovare proprio nella sua mente. È anche comodo. Dice, ciao bambini, ciao Dio! Però, allora, bambini, fra poco nascerete tutti quanti. Sì! Che bravi. Allora, io sono qui per darvi i nomi. Cosa sono i nomi? Chiede uno dei bambini. Sono delle parole con cui vi chiameranno i vostri genitori appena nascerete, poi con quella parola vi chiameranno tutte le persone che conoscerete nella vostra vita. Ma i nomi non li scelgono i genitori? Chiede sempre lo stesso bambino. No. I genitori credono di scegliere, in realtà ho già deciso io. Perché? Perché io decido tutto. Perché? Perché io posso tutto. Perché? Perché io sono Dio. Perché? Perché o stai zitto, non ti faccio nascere. Stai zitto? Bravo. Allora iniziamo proprio da te. Tu ti chiamerai Ahmed. Che bello, grazie, prego. Ahmed, tu nascerai in Sud Sudan. Che bello, è un bel posto. No, è uno dei posti più terribili della terra. Ma perché mi fai nascere in Sud Sudan? Ahmed, tesoro mio, qualcuno lo devo pur far nascere in Sud Sudan. Però sei fortunato perché non morirai di parto e avrai tanti fratelli e tante sorelle. Tu invece, dice Dio indicando un altro bambino, tu ti chiamerai Tommaso. Non ci credo, Tommaso, non iniziare però, eh? Ma è un nome molto diverso da me. Infatti tu nascerai in un posto molto diverso da me. Tu nascerai in Italia, in particolare a Genova. È bello? Ma, sì, bello, non ci credo. Farmi incazzare, se ti dico che è bello mi devi credere. E comunque nascerai in un bel ospedale e poi figlio unico, non avrai né fratelli né sorelle, però avrai un bel lavoro, insomma vivrai così bene che Ahmed vorrà venire a vivere dove vivi tu. Ma perché non mi fai nascere nello stesso posto di Tommaso? Ahmed, te l'ho già detto, qualcuno in Sud Sudan lo devo pur mettere. Ma non ci puoi far nascere tutti nello stesso posto? L'ho fatto all'inizio, l'ho fatto! Vi ho fatto nascere tutti in Africa, solo che voi siete peggio delle scimmie, siete più curiosi delle scimmie, non vi va mai bene niente, vi dovete spostarvi per forza dappertutto. Io mica potevo mettere un muro tutto attorno all'Africa e ve ne siete andati dappertutto. Adesso ci sono persone che vivono ovunque, ci sono persone che vivono in posti impensabili, incredibili, ci sono persone che vivono in Groenlandia, ci sono persone che vivono sull'Himalaya, ci sono persone che vivono in Molise. Vabbè, ma scusa, allora tu ci fai nascere così a caso? Esatto, Ahmed. Esatto, a caso. Ma non è giusto, è giustissimo invece. Io non faccio nessuna preferenza. Voi venite al mondo così, a caso. E poi io mica ho messo le frontiere a destra, a sinistra, avanti e indietro. Voi potete muovervi dove volete. Non ci credo. Tommaso! Vabbè, quindi vuol dire che se Ahmed vuole venire a trovarmi, può farlo? Sì. Se Ahmed vuole. Ahmed, tu vuoi andare a trovare Tommaso? Sì. Perfetto. Ahmed e Tommaso vengono al mondo e dopo una ventina d'anni... Mamma! Mamma, sì, so via un po'. Ma un pochino. Niente, vado a trovare Tommaso. Gli faccio una sorpresa. Ma sarà felicissimo. Pensa che non ci vediamo da prima di nascere. Mamma, sì. Mamma, non mi porti il maglione, dai. Ma no, ma fa caldo anche in Italia. Cosa c'è? Ma proprio il maglione. Ma no, ma ho capito che c'ha l'aria condizionata, ma non me lo porto il maglione. Va bene, mi porto il maglione, va bene. Dai mamma, ma sì, certo, è tutto organizzato, tutto pagato, formula all inclusive, che non so cosa vuol dire, ma vedrai. Mamma, dai che c'ho il taxi qui sotto, dai mamma. Sì, ti whatsappo quando arrivo, dai, fammi andare. Prima vacanza senza mamma e papà, prima vacanza senza genitori. Allora, primo, via il maglione. Secondo, cocktail di benvenuto. Terzo, occhiali da sole e via. Dove si va? Allora, tour nel deserto, che figo. Cosa facciamo? Egitto? Andiamo a vedere le piramidi? No, lì troppo turistico. Noi si passa per posti un po' più... Noi si passa per la Libia. Ma come? Ma la Libia? Ma siete sicuri? Ma guarda che la Libia, una volta che la vedi, è bellissima la Libia. La Libia è una specie di Svizzera dell'Africa, sai la Libia? La Libia è bellissima. Appena la vedi posti foto su Instagram, hashtag Libia, hashtag InstaLibia, hashtag Love Libia, hashtag... Ma sai che la Libia è una figata? Ci fermiamo nel deserto. Hotel 5 stelle, cena, poi concerto. Ma sai che di sera nel deserto fa freschetto? Ma sai che forse c'aveva ragione la mia mamma di questa cosa del maglione? Ma perché c'hanno sempre ragione le mamme? Meno male che domani partiamo crociera nel Mediterraneo! La nave è da paura, ma davvero da paura. 3 piscine, 1 con lo scivolo, 5 ristoranti, campo da basket e la sera spettacoli, concerti. Ma lo sai che ci sono le persone che dicono che in crociera ci si annoia? Ma non penso proprio. Io vorrei stare su questa nave veramente. Se potessi starei per sempre su questa nave, ci starei fino a quando muoio su questa nave. E poi quando lo vedi il mare, ma quanto bello è il mare, che quando vedi quel blu ti ci vorresti tuffare e poi nuotare. Oh mamma, gli italiani sono strani. Prima ancora di arrivare in Italia arriva una nave della Marina Militare ad accoglierci, manco fossimo dei re, e ci scortano la nostra nave da crociera fino a un porto siciliano. E lì mamma, oh, ma quanto bella è l'Italia, ma quanto sono gentili gli italiani, quanto sono ospitali gli italiani. Appena sceso subito mi danno il benvenuto e mi dicono dove voglio andare. Ma come dove voglio andare? Ma voglio andare dal mio amico Tommy, da Tommaso a Genova. Ma l'Italia è lunga, e meno male che turisti come noi, turisti come me, li trattano da re. Altro che hotel 5 stelle, resort, bagno in camera, letto matrimoniale, colazione a letto, wifi. Pensa mamma, gli italiani sono veramente strani. Pensa che c'è questa cosa che sono abituati, non so come, ci danno anche 35 euro al giorno così per non fare niente. Pensa come trattano i turisti, mamma. Sono arrivato, ma aveva ragione Dio, ma è bella Genova, è bellissima, e guarda quella lì, è sicuramente quella lì è la casa di Tommaso. Ma che casa che si è fatto Tommaso, mannaggia Tommaso. Allora mamma, niente, mi metto lì, mi preparo, suono, indovina chi mi risponde. Mamma, mi risponde Tommaso. Chi è? Ciao Tommaso, sono Ahmed, ti ricordi di me? Tommaso, non vogliamo niente. Ma cosa c'entra, scusa? No, non vuol dire niente, non vogliamo niente. Tommaso, sono Ahmed, quello del Sud Sudan, ti ricordi? Ho detto che non vogliamo niente. Ma non c'entra niente, Tommaso, ti ricordi che abbiamo fatto anche incazzare Dio? Tommaso! Ormai gli immigrati siamo noi, non sono più loro. Perché noi siamo l'unico paese, tra virgolette, stupido. Perché come abbiamo visto, gli altri non li accettano come noi. Qua entrano in barconi, arrivano in Italia e nessuno poi li controlla. Vanno a zonzo per l'Italia facendo un po' quello che gli pare a loro. Voi avete avuto esperienze negative con qualche immigrato? Cioè vi hanno dato fastidio? Vi siete ritrovati? Perché ridete? Un po' sul contrario. Sono loro che hanno avuto brutte esperienze con voi? Magari, sì, può dare. Perché? Noi li prendevamo in giro. Dai, li prendevamo in giro, che ne so, li sfruttavamo un po'. E che gli dicevate? Vabbè, come un po' da razzisti. voi li sfotterate? Sì. E che gli dicevate? Vabbè, non so se si può dire. Sì, si può dire. Che negro di merda. Un po' così gli dicevate? Sì. E perché? Perché qua siamo dell'idea che non ci devono stare qua, in questo paese. A zonzo così, senza fare niente, no, non è giusto stare così. Sono sincera, troviamo anche una cosa divertente sotto un punto di vista. Cioè, che cosa vi diverte? Questo è se diverte offenderli, te lo giuro, a me diverte offenderli. Ti diverte offenderli? Mi diverte offenderli, sì. Perché? Non lo so, è un qualcosa che, con cui sono nato, non lo so. Un po' un principio che c'hanno tutti. Tu puoi chiedere a chiunque. Cioè, se uno vede un nero così, io le rompe, ma lei gli rompe, lo insulta, gli dice qualsiasi cosa. Per me il principio fondamentale dei giovani è questo. Negli anni 30 gli ebrei erano discriminati in due modi, attraverso le leggi e attraverso i comportamenti delle persone. I nazisti al governo facevano leggi discriminatorie e le persone, i tedeschi, discriminavano nella vita quotidiana. No, non per forza in maniera attiva, anche in maniera passiva, così non facendo niente. In ogni caso le persone morivano e non morivano a causa di un tumore o di un infarto, morivano perché erano ebree. Dal 1993 al 2017 sono morte ufficialmente 33.293 persone e non sono morte perché a causa di un infarto, che ne so, di un tumore, sono morte perché cercavano di raggiungere l'Europa. Ma non è che l'Europa non ha trovato il modo di non far morire quelle 33.293 persone. Quelle 33.293 persone sono morte a causa delle convenzioni europee e delle leggi degli stati europei. Le ha ammazzate l'Europa. E io potrei stare qui ad elencare tutte queste leggi, tutte le volte che le ONG hanno denunciato l'illegalità, l'inumanità di queste leggi, ma il punto fondamentale, bambina mia, è che sono figlio, come lo siamo tutti. E la cosa più importante per un figlio è l'esempio dei genitori, perché per i bambini i genitori sono come dei supereroi che fanno tutto giusto, perciò cercano di imitarli in tutto e per tutto. Il loro esempio è fondamentale, perciò c'è differenza se io mi interesso alle cose o meno, c'è differenza se mi arrabbio per un'ingiustizia o meno, se faccio qualcosa contro quell'ingiustizia o meno, perché mio figlio mi guarda. Bambina mia, io non so che dirti, i figli sono una fregatura, perché mettono a nudo tutta la nostra merda e non ci si può nascondere. Non ci frega un cazzo, ammettilo anche tu che proprio non ci frega un cazzo. Della guerra e della pace non ci frega un cazzo. Non riesci più a pensare che proprio non ci frega un cazzo. Ci piace festeggiare ogni giorno una giornata, un minuto di silenzio per chi se l'è inventata. Primo di gennaio, con le mutande rosse e l'oroscopo alla Rai, ce ne fotte proprio assai. 27 di gennaio si ricorda la Shoah, bello, si ricorda la Shoah. Siamo tutti fratelli e nasciamo tutti uguali, ma hanno schifo da ammazzarli come cani. E a quelli che poi gridano Allah Akbar, io rispondo eia eia alala. Non ci frega un cazzo, non ci frega un cazzo, ammettilo anche tu che proprio non ci frega un cazzo. Della guerra e della pace non ci frega un cazzo, siamo contenti di pensare che proprio non ci frega un cazzo. Non ci frega. non ci frega un cazzo, ammettilo anche tu che proprio non ci frega un cazzo della guerra e della pace, non ci frega un cazzo, l'ho detto anche ai miei figli che bisogna finirla con il buonismo, ogni cosa ha il suo nome, il migrante è un negro, il gay è un ricchione, le femministe hanno bisogno solo un po' di cazzo, è la donna che mi lascia, stai sicuro che la i rumeni sono violenti e fanno sempre dei casini, gli zingari rapiscono e si mangiano i bambini, io non ho mai visto i funerali dei cinesi, i negri sono troppi e ancora pochi appesi, che i tempi sono cambiati e adesso siamo in tanti, lo dicevi sottovoce e ora guarda come canti, che gli altri fanno schifo, a casa nostra siamo padroni, le badanti vanno bene, gli altri fuori dai coglioni, musulmani terroristi che non rispettano la donna, je suis Charlie Hebdo e bestemmio la Madonna. Non ci frega un cazzo, non ci frega un cazzo, ammettilo anche tu che proprio non ci frega un cazzo della guerra e della pace, non ci frega un cazzo, siamo contenti di pensare che in fondo non ci frega un cazzo, non ci frega, non ci frega un cazzo, ammettilo anche tu che proprio non ci frega un cazzo della guerra e della pace, non ci frega un cazzo. A volte gli orgasmi arrivano veloci che neanche te ne accorgi. Vuoi sentire una canzone? Mi chiedeva sempre un cingalese che vendeva le rose qualche anno fa qui a Genova. Lui vendeva le rose ai turisti e con quel lavoro guadagnava più di me, che stavo al bar a bere una birra. Lui invece di bersi la birra lavorava, cantava le canzoni cingalesi ai turisti per vendergli le rose. I turisti ridevano e gli davano i soldi. L'ho rivisto qualche anno dopo, quel signore che urlava per la strada come un matto. Urlava, lavora bene, lavora forte, lavora bene, lavora forte. E lo urlava agli operai, ai cancelli, ai muri, agli studenti che incontrava. Qualche anno prima vendeva le rose ai turisti cantando canzoni cingalesi e io non mi sono mai chiesto che cosa facesse una volta arrivato a casa. A volte gli orgasmi arrivano dopo un po'. Ho deciso di andare a vedere cosa è un campo profughi, come lo definiamo noi che profughi non siamo. E ci sono andato con tanta paura perché non sapevo che cosa avrei trovato. E tutte le persone che conoscevo mi dicevano che avevo coraggio a fare una cosa simile, perché chissà che cosa avrei trovato in un campo profughi. E non solo un campo profughi, il più grande campo profughi di tutta Europa. E una volta arrivato lì ho trovato il rovesciamento di tutto quello che pensavo. Ho trovato l'opposto di me stesso. Ho trovato il mondo a testa in giù. Ho trovato che non dovevo avere paura di essere lì in un campo profughi. Dovevo avere paura di ritornare da dove ero venuto, nella nostra bella Europa, perché il pericolo di diventare disumani non è lì, ma è qui. Lavora bene, lavora forte, lavora bene, lavora forte, urlava come un matto, come per farsi sentire da tutti. Infatti lo urlava a tutti, lavora bene, lavora forte, urlava qualcosa che gli hanno detto tutti, i suoi familiari al suo paese, i suoi clienti qui, quelli che gli vendono le rose, mi raccomando, lavora bene, lavora forte, approfitta di questa Europa ricca che ti ha accolto. Lavora bene, lavora forte, metti via i soldi, mandali a casa, lavora bene, lavora forte, che poi vedrai che tutto si sistema. Qui ti trattano come una merda, ti danno del tuo ragazzini che potrebbero essere tuoi figli, parli solo con chi ti fornisce. lascia le rose, canti le canzoni cingalesi, le canzoni che ti ricordano da dove sei venuto, e comunque lavora bene, lavora forte. Non hai nessuno con cui parlare, con cui scherzare, con cui stare anche solo un momento zitto. C'è un universo tra te e tutta l'Europa che ti ha accolto, e l'unica cosa che sai è che devi lavorare bene e lavorare forte. E visto che la tua vita sta scomparendo, che tu stai scomparendo, che la tua vita non ha più valore per nessuno, allora lo urli a tutti quanti: lavora bene, lavora forte. Sembra un augurio, ma non lo è. Lavora bene, lavora forte, è una maledizione che ci ricorda quanto siamo bravi nel far sentire soli gli altri, quanto siamo bravi nell'essere soli e crederci in tanti, quanto siamo bravi nel lavorare bene, nel lavorare forte. E chissà se poi la vita è tutta lì. Ci hai risputato in faccia tutta la nostra tristezza, la nostra solitudine, il nostro rancore, il nostro dolore. Noi che abbiamo avuto il fascismo e il nazismo e abbiamo imparato, noi che adesso abbiamo una Costituzione, abbiamo lo Stato sociale, noi che abbiamo qualche elezione ogni tanto, noi abbiamo bisogno di te per ricordarci che siamo sulla strada sbagliata. A volte gli orgasmi non arrivano mai e sono guai. Sono stato immerso fin da quando ero piccolo in un mondo fatto così, con la voglia di prevaricare l'altro, di batterlo, di vincere sull'altro, di vincere almeno una volta, per pensare che anche tu vali qualcosa, che nonostante l'evidenza che perdi sempre, questa volta sarai tu a vincere e un altro perderà. E sono anni che perdi perché hai paura, perché il rischio non te lo prendi mai. Sono anni che non giochi più a questo gioco ed è per quello che perdi, perché non sai più giocare. Però ti sembra che invece a tutti gli altri vada meglio, che gli altri non solo giocano ma vincono spesso. Allora inizi a invidiare i fantasmi, gente che non esiste. Pensi che gli altri vincono perché barano. Vedi ingiustizia ovunque. E l'unico modo per avere giustizia è vendicarsi. Ma non pensi di riscattare te, la tua vita. Cerchi di abbassare gli altri, gli fai gli sgambetti. Anzi, non glieli fai tu, perché questo vorrebbe dire rischiare, esporsi. Deleghi la tua vendetta a un commento su internet, alle leggi, alla politica. La vendetta, se c'è, deve essere pulita. Il sangue, se c'è, non lo vedi. Le bastonate le dai sulla tastiera oppure nella cabina elettorale. Ma se fai una croce, poi ci penserà qualcun altro a fare giustizia. E il giorno dopo, di fronte ai risultati elettorali, non sei contento perché tu hai vinto. Sei contento perché i tuoi avversari hanno perso. È la nostra democrazia al ribasso. È la legge della tua vita al ribasso. Se siamo tutti giù, Dio mio, fa che io non sia quello più in basso di tutti. Ed è allora che io spero che un orgasmo arrivi ora. È per questo che ti ho scritto questa lettera, bambina mia, perché l'amore è come un orgasmo, l'amore è come un'acqua che porta via la via. L'amore è un'acqua che passa dappertutto e prende le strade strane, quelle senza cancelli. Perciò se io ti parlo d'amore, l'amore deciderà, prenderà la sua strada. Perché una volta che l'acqua è uscita non se ne può far niente, passa da me a te a chiunque altro, non la si può indirizzare, fermare, bloccare. E qui sta il punto, bambina mia. Che se io ti parlo d'amore, tu lo impari. C'è chi ti parla di odio e tu lo impari uguale. Amore e odio sono acqua che spinge forte, non guarda in faccia, non chiede il nome. L'odio si prende tutto, non importa cosa, e spazio ne trova, hai voglia se ne trova. Ogni volta che ti nascondi, che nascondi qualche cosa, un desiderio, qualcosa che ti piace o non ti piace, ogni volta che ti nascondi, l'odio si prende un pezzettino e sta insieme alla paura che sghignazza lì di fronte. Ad ogni nostro passo indietro, odio e paura si infilano nelle scelte non fatte, nell'aspettare ancora un poco, nel non credere ciecamente al nostro corpo, nel pensare agli altri sempre in forma di giudizio e mai come una fortuna, nel pensare agli altri come delle merde o come dei supereroi e mai come esseri umani uguali a noi. La paura di non essere accettato, di non essere abbastanza, guance troppo smorte, pelle troppo secca, culo troppo grosso, tette troppo piccole, troppo grosse, addominali, pettorali, doppie punte e smagliature nei rapporti con tua madre. Con tuo padre parli e non sai cosa dire. La paura di avere un figlio, la paura di non avere un figlio, la paura di avere un figlio non abbastanza, perché tutti gli altri figli sono abbastanza, ma tu sei davvero abbastanza? Abbastanza è la parola. La paura ci sbatte in faccia l'abbastanza senza mai chiederci chi siamo, cosa ci piace, dove va la nostra luce. Nessuno parla mai della nostra luce e della luce che facciamo tutti quanti insieme. Che se si potesse misurare, forse scopriremmo dove Dio si spronza e si diverte. La mia luce, che sia fioca o spaventosa, è qui con te. È forte, è acqua che sbatte. Camminiamo insieme, mia bambina pellegrina. È l'unica cosa che possiamo fare. Camminare. All'odio e alla paura, che sicuramente li incontreremo per strada, gli facciamo ciao ciao. Un gran sorriso sulle labbra.